se adesso te ne vai, non le ritroverai le cose. Allora, dovremmo essere in collegamento telefonico con Michele da Berlino. Ciao. Ciao, buongiorno a tutte e tutte. Buongiorno, ah, finalmente, che bello, sentiamo benissimo, vedi l'evoluzione, insomma, dai suoi risultati, quella tecnologica chiaramente. Allora, noi abbiamo già annunciato i motivi di questo spazio di, diciamo così, riflessione che vogliamo fare con te, Michele, a proposito, come ben sai, dei giorni di lotta antinuclearista che ha vissuto il paese in cui ora abiti, giorni chiaramente molto importanti per la vastità, diciamo, per l'ampiezza delle persone che ha raccolto, ma storicamente sappiamo che questo tipo di movimento in Germania, insomma, è molto forte e che poggia le sue basi, tra l'altro, insomma, in settori che si richiamano a tradizioni diverse, ma magari ne abbiamo anche il tempo per parlarne. Innanzitutto io volevo chiederti un bilancio, se puoi farlo, insomma, di questi giorni di lotta. Beh, il bilancio è sicuramente che per una settimana in Germania il tema della lotta antinucleare è stato al centro dell'attenzione mediatica. Si sono mobilitate decine di migliaia di persone e hanno tenuto alta l'attenzione su questo tema. Come tu hai detto, il movimento antinucleare in Germania ha una storia lunghissima, è iniziato già dalla metà degli anni 70 e i primi trasporti Castor in realtà sono della metà degli anni 80, e con alti e bassi ovviamente. È un movimento talmente vasto e complesso, ci stanno talmente tante sfaccettature all'interno di questo movimento che è difficile sintetizzarlo. È molto interessante. Il bilancio complessivo sicuramente è stato riportare all'attenzione dell'opinione pubblica il tema del nucleare. Tu prima hai detto che chiudere la stagione del nucleare è complicatissimo e lo si vede, cioè in Germania dobbiamo ricordare che comunque il governo Merkel ha annunciato in seguito all'incidente di Fukushima che nel 2020 le centrali nucleari saranno chiuse. Al movimento antinucleare questo non basta ovviamente, la richiesta è che le centrali nucleari siano chiuse da subito e che si trovi soprattutto una soluzione definitiva ai rifiuti, questi rifiuti che fondamentalmente sono... Non c'è una soluzione per il momento. Gorleben, che è questo sito di stoccaggio dove sono diretti i treni fino adesso, è temporaneo, è un sito temporaneo, c'è un'autorizzazione fino al 2034 e non si sa dove andranno a finire dopo. E soprattutto va sottolineato che solitamente uno si immagina i siti di stoccaggio di questi rifiuti radioattivi come sottoterra, invece a Gorleben, visto che c'è stata una precedente esperienza in Germania di un altro sito di stoccaggio in una maniera di salgemma e si è, in seguito a delle rilevazioni ingegneristiche si è capito che il salgemma, le miniere si spostano, le maniere di sale si spostano, a Gorleben i rifiuti radioattivi sono stipati in dei magazzini sopra il suolo, quindi semplicemente c'è anche quindi un rischio, se vogliamo, quello che la popolazione teme soprattutto di più è che il fatto che si parla tanto di terrorismo, di sicurezza, e invece qui c'è un deposito con decine di, con migliaia di tonnellate di rifiuti radioattivi praticamente a cielo aperto, quindi c'è, oltre a tutti i problemi ambientali che sono ovviamente legati a questo, problemi ambientali che dureranno per le prossime migliaia di anni. Il bilancio sicuramente è positivo, perché come ho detto, a livello simbolico si è riuscito a riportare sul tavolo della discussione il tema del nucleare, soprattutto quello che è, se vogliamo, l'obiettivo principale dei militanti, degli attivisti antinucleari Castor. In questo caso loro sanno benissimo che in ogni caso è impossibile fermare questi treni, lo si è visto per questo trasporto sono stati mobilitati 19.000 poliziotti che sono stati disposti lungo i binari per evitare i blocchi. E l'obiettivo fondamentale è rendere il più antieconomico possibile questo trasporto, proprio a farvela pagare cara. Noi siamo contrari, sappiamo che in ogni caso non riusciremo a fermarlo, anche perché poi dopo lo fermiamo, che facciamo? Lo riportiamo indietro in Francia? Cioè, è difficile trovare una soluzione, ma almeno ve lo facciamo pagare il più caro possibile, e così almeno ci pensate due volte la prossima, cioè ci pensate sostanzialmente. Questo è il discorso, se vuoi. Certo, è chiaro, insomma, che le azioni hanno uno scopo, insomma, di cementare anzitutto le ragioni di questa lotta e indicare, insomma, una prospettiva di incompatibilità, insomma, con il nucleare in generale. Tra l'altro, insomma, mi sembra di poter dire che il primo risultato raggiunto dalla fortissima mobilitazione tedesca è stato quello di riportare, insomma, alcuni contenuti, soprattutto alcune pratiche, ecco, meglio, di questa lotta anche in Francia, laddove fino agli anni passati, insomma, reagivano soltanto realtà che insomma potremmo definire residuali, senza per nulla togliere, insomma, l'importanza che hanno comunque nel continuare a muoversi, a mobilitarsi, ma in definitiva, insomma, il movimento nuclearista, antinuclearista in Francia, insomma, negli ultimi anni non è stato proprio all'altezza della situazione, non fosse altro per il fatto che in Francia esiste un colosso come Areva, insomma, che riesce, diciamo, tra l'altro, a esportare tecnologia nucleare in varie parti del globo. Questa volta, insomma, invece, anche in Francia vi sono stati veri e propri atti di sabotaggio. Sì, ma questo rientra in realtà anche nel discorso che facevamo prima. È un movimento vasto, ci stanno diverse, diverse parti che lo compongono. In Francia sicuramente è stata una novità, neanche i tedeschi si aspettavano che il boicottaggio, il sabotaggio, i tentativi di bloccare i binari cominciassero così radicalmente già dal sito di carico, dalla stazione dove veniva caricato il treno Castor. E tant'è che arrivò il sito di dove questi rifiuti nucleari tedeschi erano stati trasportati, è appunto di Areva, come dicevi tu prima, e Areva ha dovuto anticipare di un paio di giorni la partenza, proprio per il timore che si mobilitassero sempre più persone. Diverse migliaia di persone hanno provato a bloccare i camion che dal sito di stoccaggio arrivavano alla stazione in bassa Normandia. Diverse migliaia di persone hanno provato a bloccare i binari in Francia, e quindi il treno è partito lunedì. Faccio un attimo, non so se l'avete fatta, non sono riuscito a sentire prima tutta la... No, non abbiamo ricostruito con esattezza tutti, diciamo, le tappe di avvicinamento del treno della morte verso il sito di stoccaggio tedesco, per cui, insomma, puoi anche brevemente ricostruirle. Brevemente, sì, quindi il treno doveva partire in realtà verso la fine della settimana scorsa, in realtà è stato caricato nella notte tra lunedì e martedì in Francia, mercoledì è partito e ci ha messo già un giorno per arrivare al confine tedesco e poi dopo da lì complessivamente ci sono volute 126 ore per percorrere 1200 chilometri. A ogni tratto, quello che è anche interessante è che erano predisposti diversi tragitti alternativi proprio per cercare di evitare i blocchi dei binari, fino a arrivare a pochi chilometri da Gorleben, questa cittadina, questo paesino in realtà, in Bassa Sassonia. È anche interessante capire dove la Germania ha posizionato i propri siti di stoccaggio. Sono sia questo Gorleben sia quello precedente, il Pozzo Conrad, sono entrambi in Bassa Sassonia, una regione che si trova al confine con l'ex Germania dell'Est, in una striscia di terra che entrava nella Germania dell'Est, quindi proprio una campagna poco abitata, con paesini distanti e molto poco collegati. Infatti, parlando con alcuni compagni di Gorleben, della zona, dicevano che i primi anni addirittura, visto che nessuno conosceva bene come né i poliziotti né i militanti antimilitaristi conoscevano bene la regione, gli abitanti, la popolazione del luogo, quello che faceva la prima cosa era cancellare i cartelli stradali e mettere stop castor, semplicemente per far perdere anche i poliziotti. Quindi queste sono tattiche che sto parlando degli anni 80. Poi ovviamente negli ultimi anni si sono radicalizzate a seconda dei partecipanti al movimento antinucleare, perché comunque bisogna ricordare che in Germania è tanto radicale, composto dagli autonomen, però quanto anche da un associazionismo come Greenpeace, che è molto forte, e anche da una parte istituzionale, non bisogna scordare i Verdi, e la presenza degli autonomen, delle partecipanti più radicali, sicuramente ha anche un ruolo importante nel movimento per non lasciarlo a delle istanze politiche che poi dopo in realtà vengono portate in Parlamento, o meglio, che vengono poi utilizzate per fini elettoralistici. La cosa più importante che mi preme sottolineare è che, se vogliamo, possiamo anche fare un paragone in realtà con la NOTAV. È molto interessante che il movimento antinucleare a Gorleben soprattutto è gestito da una cosiddetta Bäuerliche Notgemeinschaft, un'associazione d'emergenza contadina, una sorta di associazione di comunità di persone del luogo che hanno gestito sin dalla metà degli anni 80 tutte quante le mobilitazioni, come in realtà ci ha insegnato anche il movimento in Italia della NOTAV. Venivano in Valsusa, da tutta Italia, per protestare contro l'alta velocità. In Germania, da tutta la Germania, venivano in questa Veldland, in questa regione dove sta Gorleben, a protestare contro il nucleare, contro lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, e a seconda della posizione, gli autonomi ovviamente, i compagni ovviamente associano alla critica al nucleare anche la critica più complessiva al sistema capitalistico, mi sembra questo ovvio. comunque seguendo le direttive e l'organizzazione che la popolazione locale indicava, che si sono sempre più radicalizzate, quindi spostando dall'incatenarsi ai binari, al levare la ghiaia sotto i binari, quindi veri e propri sabotaggi, addirittura l'azione che più ha bloccato in questa occasione, la settimana scorsa, il treno Castor, sono stati un gruppo di 5 persone che si sono praticamente hanno costruito una piramide di calcestruzzo e cemento saldandola sui binari, e la polizia, gli ingegneri della polizia non sono riusciti a toglierla, sono rimasti lì 15 ore con frullini e cercare di levarla, finché a un certo punto gli stessi incatenati dopo 15 ore, immagino anche stare lì 15 ore di notte al freddo, a un certo punto hanno detto ok, va bene, adesso ci leviamo, perché ma si sono scatenati loro fondamentalmente, se no volendo il treno poteva anche continuare a stare lì. Senti, hai detto insomma che le analogie con la Val di Susa possono offrirci degli spunti di riflessione anche importanti, no? Tu hai fatto cenno in particolare al rapporto tra diciamo popolazione del luogo esposta in prima battuta insomma alla nocività delle scorie e movimenti composti essenzialmente invece da militanti, collettivi, politici. Si può, credo, anche prendere a riferimento un'altra questione che è più legata a quanto proprio avvenuto nei 5 giorni di scontro in Germania, perché insomma anche lì si è garantita una unità del movimento anche nella scelta delle pratiche di lotta, nonostante il fatto che poi ci sono delle differenze, perché come tu ricordavi esistono anche movimenti diciamo antinuclearisti dalla pratica non violenta. Eppure, come è accaduto ad esempio per il 3 luglio in Val di Susa, anche in questo caso diciamo non si è esposto il movimento all'isolamento di alcune sue componenti, ma nel suo complesso tutti hanno rivendicato ciò che è successo, anche perché insomma è bene ricordarlo questo, violenze sicuramente sono ascrivibili soprattutto all'atteggiamento delle forze di polizia. Chiaramente poi la reazione, dato che la determinazione era forte, insomma è stata una giusta conseguenza, no? Però su questo aspetto diciamo dell'unità del movimento è importante riflettere, si riproducono queste situazioni, no Michele? Esatto, no, quello che a me ha colpito positivamente è stato sentire esponenti di questa Notgemeinschaft che dicevano abbiamo visto, ci sono stati degli scontri tra la polizia e le frange più radicali, ma tutto quanto è iniziato dalla polizia, loro i compagni diciamo si sono difesi, è stata una forma di autodifesa fondamentalmente, mentre altri hanno preferito o spostarsi o andare via, scappare, e comunque affrontare la polizia tedesca è pesante, e sentire delle contadini sessantenni o madri di famiglia o anche esponenti dell'associazionismo di Greenpeace che dicono alla fine è stato positivo e necessario opporsi e resistere alla violenza della polizia, ti dà anche il segno della radicalità che questa forma di lotta sta assumendo, anche perché nei 5 giorni, in realtà negli ultimi 3 giorni di più in Germania, nelle vicinanze di Gorleben, la polizia ha effettuato 1300 fermi, e che sono un numero fermi ovviamente perché anche la polizia fondamentalmente effettuava questi fermi che sono anche criticabili, sono stati anche criticati dal punto di vista giuridico perché non pienamente legittimi, se vogliamo, e erano più che altro un mezzo per spostare le persone, cioè perché all'inizio i poliziotti dicevano ok, tu qua sui binari non ci puoi stare e ovviamente gli attivisti militanti si spostavano 10 metri più a destra o più a sinistra e quindi la polizia fondamentalmente poi dopo ha deciso di ammanettarli e portarli via. Però c'è stata sicuramente anche una reazione violenta, una repressione decisamente forte da parte delle forze dell'ordine. Sono circa 400 le persone ferite, soprattutto da pepper spray, soprattutto da manganellate, quindi comunque stiamo parlando di numeri abbastanza alti per i partecipanti diversi di. In ogni caso è anche quello che è interessante e bello è proprio la diversità delle azioni, perché ci stanno sia appunto le persone che si incatenano ai binari, sia chi si oppone alla repressione della polizia, sia le manifestazioni degli studenti che passavano e attraversavano i binari, degli scolari proprio, cioè delle scuole elementari che con le maestre andavano a fare la gita, se vogliamo, al binario e si posizionavano lì, o ai contadini che andavano con i trattori e cercavano e portavano e buttavano i tronchi sopra i binari. Quindi proprio una diversità di azioni che è positiva e fa comprendere quanto la lotta sia sentita sia dalla popolazione del luogo, sia appunto come poi dopo quando un luogo è sentito bene comune, quanto c'è un senso di quello che stai facendo, c'è anche una comunità di azione fondamentalmente. Senti, rispetto proprio alla repressione che è stata massiccia nei numeri e nelle forme in cui si è dispiegata, sai se invece dai fermi qualcuno è stato trattenuto in arresto e se sì come si sta pensando di rispondere? Allora guarda, questo io lo stavo cercando, non ti so rispondere con certezza a questa domanda, perché la maggior parte, appunto come ti dicevo, erano più che altro il modo di far proseguire il treno, quindi fermi fino all'arrivo del trasporto Castor nel sito di Gorleben. E non ho trovato in realtà numeri di persone arrestate. Quindi su questo non te lo so dire, spero e immagino anche perché chi ha fatto le azioni più radicali si è saputo mettere al sicuro, insomma. Bravo. Ecco. Fondamentalmente è questo. Benissimo, tra l'altro insomma ecco, giusto per rievocare ancora analogie, insomma, no? La battaglia nei boschi del 3 luglio ha ricordato anche dal punto di vista forse ambientale in parte, no? Ciò che è accaduto nei pressi delle varie tappe di avvicinamento di questo treno, perché anche lì mi sembra di aver capito che ci sono stati frangenti di battaglia nei boschi, insomma, anche se non quelli non forse belli come quelli della valle. Infatti è campagna, stiamo parlando della Bassa Sassonia, che è non paragonarla a livello paesaggistico con la Val di Susa è sicuramente arco, se vuoi, però sicuramente, cioè, ci stanno dei video delle cariche a cavallo nei campi. che manifestazioni, sì, manifestazioni di compagni, di attivisti che si dirigevano verso i binari, che venivano caricate dalle truppe a cavallo, e quindi in mezzo ai campi non coltivati, adesso che è quasi dicembre, però sono immagini particolari sicuramente, non siamo abituati a vedere appunto cariche a cavallo all'interno di un campo coltivato. Senti, abbiamo detto insomma che il movimento antinucleare è comunque variegato, variamente composto, in parte insomma c'è una tradizione che si lega all'antimilitarismo, come tu hai ricordato invece ci sono istanze più complessive che fanno della lotta antinucleare la lotta contro un modello di sviluppo, quindi si riallacciano ad una critica fortemente anticapitalista. Hai ricordato anche che rispetto alla questione con, diciamo, sulla scia di Fukushima, la Merkel ha annunciato la messa al bando del nucleare a partire dal 2022. Qualcosa già l'hai accennato, ma di fronte all'annuncio della Merkel, come ha reagito? Diciamo, quest'ultima lotta credo abbia già dato una risposta a questo annuncio così probabilmente dettato più da ragioni sensazionalistiche per tenere a bada, no, le emozioni. Certo, infatti il timore, se vogliamo, del movimento antinucleare è quello che appunto sia stato un annuncio legato ai fatti di cronaca, e chissà che succederà tra 10 anni, se avremo un'altra crisi petrolifera, se non si trova una soluzione, l'obiettivo, appunto, uno degli obiettivi principali del Castor Shattern, di questo movimento di fermare il Castor, è anche appunto l'uscita immediata dal nucleare, perché si afferma che fondamentalmente le capacità tecniche e tecnologiche esistono per produrre energia senza nucleare, e quindi fondamentalmente chiuderle tutte quante da subito. E questo è, se vogliamo, l'obiettivo politico più importante per il movimento tedesco complessivo, e non solo per il movimento Castor, che se vogliamo è appunto più localistico e ha un'istanza appunto più immediata chiudere o trovare una soluzione definitiva al problema dello stoccaggio di rifiuti in questa regione. È il discorso complessivo del movimento è appunto quello di farla finita subito con le centrali nucleari. Bene, sei stato abbastanza esauriente, per questo ti ringraziamo Michele. Io però vorrei approfittare insomma della tua presenza per commentare, magari non so quanto ci si possa esplorare insomma in ipotesi ragionevoli da questo punto di vista, ma quantomeno per commentare un po' la notizia della scoperta di questi omicidi, quindi cambiamo argomento insomma, omicidi che sarebbero stati compiuti da una cellula diciamo che si richiama alle ideologie nazionalsocialiste, quindi dei nazistoni, in cui insomma il ruolo dei servizi segreti tedeschi insomma non appare limpidissimo. Di questi 10 omicidi insomma l'attribuzione di questi 10 omicidi a questa cellula è avvenuta proprio da poco. Insomma, cosa sta succedendo? Beh, questo è un altro argomento che in Germania sta tenendo banco, e a livello politico è molto molto interessante e complesso, per tutte le conseguenze, per tutti i commenti e le conseguenze che sta mettendo in moto. Non so se non credo ne hai parlato prima, se l'hai descritta, accenno brevemente: all'inizio di novembre è stata scoperta, o meglio, si sono fatti scoprire un trio di neonazisti, una cellula clandestina che si fa chiamare NSU, Sottosuolo Nazionalsocialista, quindi si richiama esplicitamente all'ideologia nazionalsocialista. E due esponenti di questa cellula si sono ammazzati, un'altra è stata arrestata dopo aver dato fuoco al covo in cui negli ultimi tempi si nascondevano. E quindi a loro è stato legato l'omicidio di 10 persone negli ultimi 13 anni, dal 98 più o meno, se non sbaglio. È un argomento molto interessante perché in realtà mette in luce diversi aspetti anche della società tedesca, se vuoi, oltre che della politica tedesca. I 10 omicidi sono stati cioè le 10 persone ammazzate, 9 erano immigrati, 9 turchi e un greco, quindi per molto tempo prima della scoperta di questa cellula erano stati legati dai media alla questione di mafia, se vuoi, o soluzione di conflitti interni, ed erano stati chiamati Döner Morder, gli omicidi del kebab, quasi a indicare, a disumanizzare le vittime di questi omicidi. Le conseguenze sono molto importanti, perché poi dopo, piano piano, si è scoperto che in diversi casi di delle azioni commesse da questo trio, da questa NSU, era presente almeno un esponente dei servizi segreti tedeschi, che non si capisce bene che cosa stesse facendo lì, anche se all'interno degli ambienti questo uomo era chiamato il piccolo Adolf, quindi ti fa già capire la sua posizione. E si è riaperto il dibattito su, appunto, le connessioni tra i neonazisti, tra i gruppi neonazisti e gli apparati dello Stato, attraverso anche la presenza e di informatori e di esponenti dell'ANPD, il partito nazionalista, se vuoi, di estrema destra, che è presente anche in Parlamento. E quindi in questo momento ci sta un grande dibattito su come arginare il terrorismo nero. Il problema in realtà è che sia da parte degli esponenti politici del governo, sia da parte dei media principali, mi viene in mente lo Spiegel, il Süddeutsche Zeitung, quindi i principali giornali, si fa si crea un legame tra il terrorismo nero e se vogliamo chiamarlo il terrorismo di sinistra, che però in realtà in Germania non esiste. Ad esempio lo Spiegel, quando fu scoperta questa cellula, aveva titolato: è stata scoperta la Braune Armee Fraktion, proprio per creare un legame semantico tra destra e sinistra. Le conseguenze che adesso si stanno a livello politico, dopo tutto questo dibattito, si sta cercando di proporre una riforma dei servizi segreti, che in realtà, oltre al bando di questa MPD, di questo partito che era legato in modo strettissimo a questi gruppi clandestini, che ovviamente non c'è solo l'NSU, questi che si sono scoperti, ma esistono diversi gruppi di neonazisti qui in Germania, e appunto si sta proponendo una riforma dei servizi segreti che ce ne sta uno che si chiama Verfassungsschutz, che è difesa della Costituzione, si occupa fondamentalmente della difesa dello Stato democratico e di evitare che attentati appunto allo Stato democratico, ed è organizzato regionalmente e si sta cercando di metterlo più in connessione, di creare una connessione più stretta tra questa federale e metterli sotto il diretto controllo del Ministero degli Interni e privarli sostanzialmente di una supervisione politica. E, è notizia di ieri che è stata presentata una proposta di legge per creare una lista di tutti i militanti di estrema destra, però ovviamente questo è l'inizio, anche perché in Germania la destra è tabù, per la storia della Germania il nazismo è il male assoluto ovviamente, e quindi c'è questo inizio di controllo di un apparato di controllo strettissimo sarà probabilmente nei confronti della destra, ma sicuramente non mi stupirei che come ti dicevo prima, già creare questa associazione tra un terrorismo di destra che in Germania ammazza gli immigrati e attenta ai compagni, con un terrorismo di sinistra inesistente che andrà poi dopo a cadere sulle spalle dei compagni, dei movimenti, probabilmente, anche perché la crisi qui in Germania non esiste, però in Europa ben sappiamo è gravissima e evidentemente a breve ci saranno delle evoluzioni anche nel movimento dei compagni qui in Germania. Avere già pronta quindi da parte dello Stato tedesco degli strumenti repressivi appoggiati da tutto l'arco istituzionale e tutto di destra contro questi neonazisti brutti e cattivi farà comodo sicuramente appunto allo Stato tedesco, per poi dopo essere pronto e avere già degli strumenti quando si svilupperà un'alternativa radicale una critica radicale al sistema capitalistico europeo, della Banca Centrale Europea. E di quello che però appunto sono considerazioni queste che non so. No, certo, bisogna stare attenti, insomma, su entrambi i versanti, insomma, no? Sia cercare di verificare, non so con quali strumenti, insomma, l'esistenza di una zona cosiddetta grigia, insomma, nella quale i servizi fanno da copertura alle azioni squadristiche dei neonazisti, e sia verificare, come appunto giustamente mettevi in luce tu, dato che sono già state avanzate, no, questo tipo di teorie su vecchie peraltro, sugli opposti estremismi, insomma, se questa strategia non ha poi come obiettivo nulla di più se non restringere gli spazi di libertà complessivamente e di agibilità politica in senso stretto, insomma, per i movimenti di contestazione. Anche perché, lasciamelo dire Michele, rispetto alle considerazioni che facevi rispetto alla crisi, si è visto quanto poi le situazioni correlate come sono, insomma, hanno una ricaduta poi in tutti i paesi. L'altro giorno anche la collocazione dei Bund ha registrato pesanti difficoltà e non sono stati collocati tutti i titoli tedeschi, ed è insomma così, se vogliamo, la prima, diciamo così, testimonianza del fatto che comincia a scricchiolare un po' l'intero edificio, quantomeno insomma della costruzione di questa Europa. Va bene, chiaramente insomma poi sta il movimento Antifa, che in Germania è uno dei più importanti, puoi vigilare meglio, no, su tutto questo. Assolutamente, assolutamente. Va bene, la comunicazione tra l'altro si sta facendo sempre più complicata. Ci sei ancora? Ci sei ancora? Sì, ti sento, ma veramente ogni tanto... Ecco, allora giusto per salutarci bene, grazie Michele del tuo intervento, salutaci anche il tuo compagno di Baldorie. Assolutamente, non mancherò, che non è purtroppo con me. Va bene, allora a presto, ciao. Loving you, the things they say and do, trying to separate me and you. Still I got enough love for you, yeah.